strano mondo che ha ben poco per me. Cerco senza impazzire di riuscire a crescere ed uscire da una stronza realtà che mi spinge ormai verso nuovi ed inattesi guai, stesso verso cose che manco poi sai. Io so che non contano in sé, basta la volontà per cambiare la tua realtà. Quando t'accorgi che non va, sono in cerca dei miei perché, persi lungo il mio cammino, anche se indeciso declino. Cerco di farmi forza e rimo per riuscire ad esorcizzare ognuna delle mie pare. Scazzi continuano ad arrivare senza farmi respirare, ma ora ho capito che posso solo contare su me stesso. Del resto il mio problema è ben spesso, e fin quando posso lo aggiro. Rimando a domani per fare il figo e mi ritrovo dentro ad un giro che certe volte odio ed altre ammiro. Pensi sia semplice senza neanche un complice cercare di risalire da questo fottuto vortice. Io non so se c'è ancora al mondo qualche cosa che sai fa per me. Come in un freestyle ed improvviso anche in mezzo ai guai. Sappi, finché avrò fiato combatterò in questo strano mondo che trasmette poco a me. Rendo tutto più difficile seguendo qualche cosa di impossibile, ma poi mi rendo conto che sono troppo in contrasto con un sistema e una realtà con i quali ancora non mi incastro. E spesso mi domando se mi adatterò un giorno a tutto ciò che mi sta intorno, ma poi sui miei passi ritorno ricadendo in una via totalmente sotterranea, dove ti sembrerà strano, ma la fortuna è una cosa estranea e Dio sa solo quanto io voglia migliorare me stesso. Ma sono circondato da simboli errati dai quali sono represso. Lo sviluppo è assai veloce, eppure dai media apprendo che vivo in un pianeta spento, che a mia opinione va regredendo. Il risultato è che ogni giorno affronto con l'ansia di dover stare sempre pronto. La merda cade su di me strapiombo, a volte tanta che quasi ci affondo. Per questo spesso mi abbandono, sopravvivo solo se mi sto sperando che per cercare di cambiare arrivi un attimo un po' più buono. Io non so se c'è ancora al mondo qualche cosa che sai fa per me. Vivo la vita come in un freestyle ed improvviso anche in mezzo ai guai. Sappi, finché avrò fiato combatterò in questo strano mondo che sempre più malato è. Cerco ancora il cammino giusto e dunque anche il mio giusto posto. Sai, faccio gran fatica e c'è che ho il cranio troppo tosto. Sbatto la testa in qualsiasi posto per aver ciò che voglio ad ogni costo. Gli amici mi chiedono se mi importa dell'esistenza. Sanno benissimo anche loro che non ho tanta pazienza. Aspetto un cambiamento interno, ma ogni input è esterno. Fa in modo che il mio adattamento subisca un brusco rallentamento. E quindi cerco dentro me una soluzione ad ogni questione. Con attenzione studio una reazione ad ogni problema che poi si pone. Tra me e la mia pace interiore cerco di guadagnare col sudore l'uscita da una strada sbagliata che prima ho preso per un errore. Perciò nel male e nel bene so bene che mi conviene farmi forza, specie in quelle sere in cui ne ho le palle piene. Reagisco anche mi stupisco, ancora tante cose non capisco, ma l'importante in fondo è che resisto. Stringo i denti, tengo duro e insisto. Io non so se c'è ancora al mondo qualche cosa che sai fa per me. Vivo la vita come in un freestyle ed improvviso anche in mezzo ai guai. Sappi, finché avrò fiato combatterò. Che sai fa per me. Vivo la vita come in un freestyle ed improvviso anche in mezzo ai guai. Sappi, finché avrò fiato combatterò.